Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Arriva Yumi, il robot collaborativo per dare una mano, quasi letteralmente in questo caso, ai laboratori di analisi nei test sierologici, permettendo così, questo è l'obiettivo, di analizzarne un maggior numero. Yumi è stato progettato al Politecnico di Milano in collaborazione con l'OIEO, quindi l'Istituto Europeo di Oncologia, e con ABB, che ci ha messo i robot, e a regime potrebbe automatizzare Yumi, questa coppia, come vedremo, di braccia robotiche, fino al 77% delle operazioni necessarie per svolgere i test, consentendo così di arrivare ad analizzare fino a 450 campioni ora. Il tema, non c'è bisogno di dirlo, è molto caldo, visto che dalla nostra capacità di eseguire test sierologici e anche tamponi dipende, come sappiamo, in buona parte la nostra anche capacità di vedere cosa succede, quindi di gestire l'epidemia. Ne parliamo con Andrea Maria Zanchettini, che è professore associato al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, che si è occupato dello sviluppo di questa applicazione e della programmazione del robot. Buonasera Zanchettini. Eccomi, buonasera a tutti. Allora Zanchettin, per prima cosa ci ricordi quali sono i passaggi fondamentali, come funziona normalmente un test sierologico? Allora, funziona che si preparano delle piastre, queste piastre contengono circa un centinaio di pozzetti. In ogni pozzetto si mette la proteina spike del virus, quindi abbiamo 100 pozzetti, ognuno dei quali ha una proteina spike del virus. Dopodiché si aggiunge il siero del paziente. Chiaramente se il siero contiene gli anticorpi, questi vanno ad aggredire, ad attaccarsi alla proteina del virus. Questa cosa genera una reazione che va a colorare la piastra, quindi banalmente leggendo il colore, l'intensità del colore della piastra, si riesce a capire quanti anticorpi il paziente ha nel siero e quindi nel sangue. Ecco, quando lei parla di piastra, di che cosa stiamo parlando? Una piastra è semplicemente una matrice con delle righe e delle colonne, e in ogni posizione c'è un pozzetto che sì, può contenere del liquido. Se le dico un pezzo di plastica con dentro delle infossature, come dire. Va benissimo. Ecco, per capirsi. E che cosa fa il robot? Che cos'è che avete automatizzato di tutto questo processo? Allora, il robot si occupa dei cosiddetti lavaggi. Diciamo, tra le fasi di questo test ci sono delle fasi che non ho ancora nominato, appunto sono i lavaggi. Cioè, tra uno step e l'altro del test sierologico, la piastra va lavata con una soluzione. Quindi dopo, ad esempio, aver messo la proteina del virus, si esegue un lavaggio. Si esegue un altro lavaggio, ad esempio, quando è stato deposto il siero del paziente e così via. E questa operazione porta via, se ho ben capito, gran parte del tempo, quella che avete automatizzato, no? Esattamente. Allora, un lavaggio viene eseguito tre volte e ci sono quattro lavaggi in tutto. In ogni lavaggio significa mettere del liquido all'interno di ogni pozzetto e poi prelevarlo e buttarlo via. Questo viene fatto tre volte e ci sono quattro lavaggi, quindi 12 volte in tutto all'interno del test. Quindi 12 volte per paziente su una piastra che ha quasi 100 campioni biologici, stiamo parlando di circa 1200 ripetizioni di questo gesto che abbiamo fatto tutti qualche volta nella vita, cioè aspirare un liquido, per esempio con una siringa da un flacone e poi reiniettarlo in un altro. Però 1200 volte in un giorno forse è un problema per chi lo fa. Beh, in realtà non 1200, ma molte di più, perché vogliamo processare tanti test e questi ne abbiamo parlato finora, sono 96. Certo. Quindi il problema è per la persona che lo esegue, ci sono proprio delle patologie all'apparato muscoloscheletrico, in particolare tendini del pollice, proprio per la ripetizione continuativa di questo movimento, che è quello di premere sul pistoncino della micropipetta, della siringa. Insomma. Come avviene la collaborazione con gli operatori del laboratorio? Allora, stiamo parlando di un robot collaborativo e di un'applicazione che non è completamente automatizzata, quindi la persona ha ancora il suo ruolo, fa tutte le fasi, quindi la deposizione della proteina, la deposizione del siero, ovviamente la lettura del risultato, eccetera. Diciamo, tra una fase e l'altra si inserisce il robot, quindi l'interazione tra l'uomo e il robot è il deposito di questa piastra in una zona dalla quale il robot lo può prelevare. Questo robot sta proprio di fianco all'operatore, perché non è facile, no, far lavorare a stretto contatto un essere umano con un robot. Esattamente, è un robot collaborativo, quindi è certificato per lavorare in sicurezza con la persona. Ora qui il rischio, più che un rischio meccanico di impatto, di urto, è più probabilmente il rischio biologico. Stiamo parlando comunque di soluzioni e quant'altro. Però il robot da quel punto di vista è diciamo, certificato per poter lavorare con la persona. Inoltre non rischia di infettarsi il robot. Senta, in generale quando si riesce a automatizzare un passaggio lo si rende anche più ripetitivo, no? Sappiamo che è difficile in realtà fare bene questi test ripetendo le stesse performance ogni volta. Ecco, come vede quindi il ruolo qui dei robot, anche se state ipotizzando di automatizzare qualche altro passaggio, mi piacerebbe capire. Allora, è vero che il robot esegue questa operazione in maniera sicuramente più ripetibile, è vero però che ci sono delle fasi che non si possono attualmente automatizzare. Pensiamo banalmente al prelievo del sangue, è una cosa che un robot in questo momento non potrà mai fare, come anche l'esecuzione di un test molecolare, cioè del cosiddetto tampone, cioè mettere uno stecchino con un pezzo di cotone nella gola di una persona. Un robot non riuscirebbe mai a farlo con la stessa ripetitività di una persona preparata. Quindi è vero che molte cose si possono automatizzare. Questa era facile, era la prima cosa probabilmente che era automatizzabile, ma è anche vero che non tutto si riesce ad automatizzare in maniera efficiente. Quindi il ruolo della persona è ancora centrale, lo sarà anche per diverso tempo. Grazie, grazie Zanchettin. Grazie a tutti. Va bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. L'appuntamento con Smart City, come sapete, è domani, sempre qui alla stessa ora. Buona serata.